Quando in ogni paesello l'inverno viene e la neve il suo mantello vi distende pian piano, abbracciando il mio fardello di cenci e pene, sospirando un ritornello, me ne vado lontano. Come non di nevo, senza un nido né raggio di sol, per ignoto destino il mio nome è lo spazzacamino della mamma nona, la carezza più tenera e lieve, i suoi baci non so, la mia mamma è soltanto la neve. È Natale, non badare, spazzacamino, ogni bimbo ha un focolare e un balocco vicino, io m'accosto per giocare quando un bambino mi dà un urto non toccare, va a spazzare il camino. Tu mi scacci, lo so, perché il volto più bianco non ho, ma lo spazzacamino tiene un cuore come un altro bambino. Se possiedi il tesor di un lettuccio ben soffice e lieve, io mi sento un signor quando sogno in un letto di neve. Ed è questo il destino di noi poveri spazzacamini.